Ho il cuore a posto quando penso a te. Mi si riallineano le stelle in cielo. Sparisce tutto quello che non c'è. E sembra tutto così vero. Io che non sono mai sicuro di niente, che credo ancora al fuoco degli sguardi. Ho il cuore a pezzi quando penso che volano gli attimi di questi anni. Questo dolore che non passa mai, questa emozione che ogni volta è nuova, la mia passione fonte dei miei guai. Niente di noi che a pensarci non mi commuova. Oh, amore lontano. Sì, ti tengo dentro di me dall'orizzonte al primo piano. Ti tengo dentro di me in primo piano. Amore lontano. Non so chi sono quando penso a te, che ti appartengo come il verde a un prato. In quale epoca mi porterai? Innamorarmi è il mio talento innato. La mia condanna, la mia libertà, il filo rosso di una vita insieme. Fuori da tutto, fuori anche da me, cercando il sole quando tutto intorno piove. Oh, amore lontano. Oh, sì, ti porto dentro di me dall'orizzonte al primo piano. Amore lontano. Sei sempre dentro di me, nell'orizzonte, in primo piano. Quando penso a te, mi si riallineano le stelle in cielo. Ti tengo sempre dentro di me, nell'orizzonte, in primo piano.